o l'altro è troppo generoso. Comunque qua il manuale dice, comunque bene o male le specifiche una volta tarata sulla frequenza apposita, questo è un range che va dai 25 ai 29 MHz, ha uno stub di taratura che è lungo, proprio l'ultima parte, lo stub, no? Si inserisce e si blocca con una vite, una brugola, chiave a brugola. Questo coso è lungo 90 cm lo stub di taratura, quindi puoi spaziare, qua dice da 26,7 a 29,5 addirittura. Io l'ho tarato per il canale 19 e lo stub andava, diciamo, misurato 76 cm. Se avessi saputo che era un po' più bassa come centratura per via delle condizioni, l'avrei fatto più basso lo stub, l'avrei accorciato un po', sarebbe salita un po' la frequenza di centrobanda. Perdonami, se avrò che riprendo e me devo allontanare. Se siete qua, ci sentiamo dopo. Riprendi, scusa. Sì, è chiaro, no, non c'è problema, stava parlando Marco. Ma Marco, comunque, tutto sommato, l'importante è che tu non abbia degli schizzi di ROS o delle impennate repentine che vadano in maniera plateale oltre il 2. Per il resto, insomma, per i wattaggi che vengono utilizzati, la situazione in ogni caso ce l'hai sotto controllo. Senti, allora, sì, io adesso, a parte che sono con 4 watt adesso, per evitare che scaldi l'apparato sono 4 watt, le misure sono state fatte con 10 watt misurati con più strumenti, quindi bene o male dovrebbero essere quelli. Comunque io preferisco pensare che quello che segna di più è il più affidabile. In poche parole, io se vedo stazionarie dopo oltre l'1.5, ben oltre l'1.5, io accordo direttamente, grazie a Dio l'accordatore c'è, così i finali lavorano tranquilli. Vediamo se c'è Gianni, se c'è rimasto Gianni. Avanti Gianni. Attento, doppio room. Rimango un attimo in ascolto, scusa un attimo, sto facendo una cosa. Ero sicuro, ma sicuro, ero curioso di sapere com'è la stazione di Gianni. Vabbè, però vanno misurate con lo stesso wattaggio mio. Ti volevo chiedere una cosa, Salvatore, ma secondo me questi watt che questi grafici che fanno in fabbrica, diciamo, con quante potenze le misurano le stazionarie? Non lo so, però sicuramente dovrebbe essere una misura correlata a quella che la frequenza di destinazione degli apparati. Per la 27 sono i 5 watt per la 27. Per le HF sono sino a un massimo di 500 come potenza massima. È chiaro che quindi io mi auguro che siano almeno i 5 watt dichiarati come limite di trasmissione per la CD. Eia, beh, immagino antenne CB, perché gli attacchi lineari salgono, qualcuno ha detto che non salgono sensibilmente, che so, sull'1 io 1,05 di SVR con 10 watt, quando ne metto 40 sale a 1,1 per dire, invece dove più stazionarie salgono di più le stazionarie, passando da 10 a 40 watt per esempio, o da 4 a 20, da 4 a 40. Certo. Vabbè, comunque diciamo che per le potenze che stiamo impegnando noi non credo che insomma siano significativi come valori di ROS, nel senso che usciamo con potenze così basse, per cui cioè fino ai 2 e qualcosa anche in più, tutto sommato non è che si stia rischiando chissà che, ossia un deprezzamento totale della potenza trasmessa. Ehi, d'altronde Salvatore, io ho un'antenna da 1,60 m per la macchina con base magnetica, misurato con rosmetro più generoso di stazionarie. Io sull'1, 1,3 m, sull'80 1,3 m, ho fatto il centrobanda a canale 40. Bene o male, una volgare antenna della macchina a 80 canali tiene con stazionale basse, quindi una 5 ottavi lunga 7 metri meglio ancora, immagino. Sì, beh, tu pensa che io utilizzo questa antenna qua, questa qua la utilizzo per e riesco ad accordarla con questa radio per i 6 metri, per i 50 MHz, capito? Quindi il lavoro lo sta facendo l'accordatore della radio, riesco ad accordarla. Però non posso pretendere un granché, perché ovviamente c'è un deprezzamento delle misure tale per cui il segnale poi di uscita non è, anche quello ricevuto non è certamente dei migliori. Ma Cosmic Gothic, che faccio settaggio, che poi te lo dico, mi devi dire anche con quanti wattifici tu. Allora, io le prove le ho fatte con 10 watt, misurati su ogni banda, e ho fatto canale 1, canale 40, 80, 120, 160, poi andando sui canali sotto sono andato 40 sotto 0, sotto l'1, proprio meno 40, cioè non il 40 dell'indicatore del baracchino, meno 80, meno 120, meno 160, con 10 watt su ogni banda, perché poi come scendi o sali di banda i watt calano, quindi devi compensare un pochino. Ecco, ma forse per lavorare a parecchio è famiglia per fare queste cose, mi regolo meno. Io col baracchino l'ho fatto, col magnum, ho messo 10 watt, quindi con 4 watt sei liscio, puoi stare su 120 canali tranquillo, senza problemi, anche di più, però sai, a parte che possiamo usare i 40 e un po' meno legalmente i 40 sopra per i DX. Oh, mi fate una cortesia? Eia. Ah sì, io sto uscendo con 5 watt, con 5 watt di picco. Se a zero del tutto, mi dite quanto, che differenza c'è anche come ricezione di segnale da voi? Adesso vado ad azzerare, eh? Ecco qua, ora ho azzerato del tutto, sto uscendo. Per me non cambia quasi nulla. Adesso è proprio zero, non mi segna neanche una minima tacchetta nella potenza in uscita, è proprio chiuso, l'RF power è chiuso del tutto. Allora, qui sei passato da circa 9,25 a 9,20. Chiuso del tutto, da te o già? È uguale, 9,25 a 9,20, non è che cambia tantissimo. 0,0. Eppure, vedi, nelle specifiche della radio dice che con l'RF chiuso a 0 del tutto la potenza minima in uscita sono 5 watt. Per cui, vedi, anche con radio come può essere questa, teoricamente nel display almeno quei 5 mi sarebbero dovuti comparire, e invece non mi compare neanche un watt. Meglio Salvatore, hai più range. E vabbè, no, ma era per dire che comunque vedi che gli strumenti che tendono a visualizzarti le informazioni spesso e volentieri sono indicativi, cioè bisogna andare proprio con strumenti professionali messi nella catena di trasmissione, in questo caso all'uscita della radio, per vedere esattamente quanto è il wattaggio e avere il conforto sicuro da tali strumenti, piuttosto che affidarsi solo a quelli della radio. Salvatore, qua dice minimo un watt questo apparato, invece scende a mezzo watt, addirittura anche 400 milliwatt, guarda. così 4 watt, così sono al minimo del minimo. Purtroppo non ho strumenti perché sono in diretta con l'antenna TV. Guarda la portante muta. Sì, la portante muta è un po' sopra i 920, però la radio si vede che sta soffrendo. Siamo un po' ai limiti e vediamo un po'. Allora rimetto 4 watt. Io vado a occhio di smettere. Io praticamente a Santiago 1 ho 4 watt. Ecco qua, ok, dai. Vabbè, sì, è tornato sopra i 9,40. Comunque Salvatore, secondo me, adesso parlando della mia antenna, questi sono basso, no? Con gli estremi della banda, le stazionarie e la frequenza, no? Le fanno col Managal, come si chiama? Managal, non sono misurazioni reali, capito? Sono tutte cose teoriche. Ho capito, ho capito. Lucrezio, a Biselle. Ma qua sono passi tu con Marco. Certo, ma io sono al risparmio, è un tempo di spending review. Io sono a... al minimo come Luca. RF Power. Ecco, proprio sono terra a terra. Luca, anch'io sono terra a terra. Solo portante prova, che se parlo chiaramente salgono e la prova non vale. È positivo, ora comunque siete tutti i furti qua. Quindi come vedete in città non servono 50 watt, 100 watt, bastano mezzo watt, anche meno, anche 100 milliwatt, se potessi li metterei. Certo, certo, istante a noi, a voglia. Di energia elettrica. Solo che noi se non vediamo 9,60 non siamo contenti. Vabbè, però la radio ne guadagna, nel tuo caso ne guadagna tantissimo. Aspetta, vediamo la temperatura, è un metallo sta diventando, aspetta, metto 40 watt. Guarda, 40 watt, vedi un po', 1, 2, 3. Non è cambiato di nulla. qua lo smitter c'ero a 9,30. Non è cambiato di nulla, eri 9,41, 42 prima e sei 9,41, 42 adesso. Di più non sale forse. Allora, 4 watt, ok. Lascio raffreddare, dai, rimango in quel X, riprendete voi. Sì, raffredda, raffredda. Ah, io Luca, ma ti iscrivi, ci facciamo qualche zap, non stai lavorando nel settore. Cosa mi iscrivo? Vado a mettere a posto dei telefonini, mi servono soldi, capito? No, appena a posto ce lo faccio, dai. Però iscriviti su PS, o dove avevi intenzione di andare? Poi mi dai una lista dove andare, dai, una mano. Eia. Comunque se ti può interessare, tra 17 minuti e 7 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riprende il video a carte scoperte dell'EPT Grand Final di Monte Carlo su pokerstars.tv. Capito, stessa. Praticamente lo mandano mezz'ora di ritardo, in differita, no? Che sono, con tutte le diavolerie elettroniche che ci sono, qualcuno potrebbe indicare le carte a uno dei giocatori presenti, quindi lo mandano con una differita. Però è interessante perché vedi come giocano questi demoni qua. Questi stanno giocando per una vagonata di quattrini oggi. Abbassa il monopolio di Stato. Vabbè, questi sono a Monte Carlo, poi figurati. Vabbè, che la cosa funziona così: chiunque giochi all'estero, i casinò sono tenuti poi a rendere note la lista dei nomi di chi è andato a premio. Cosa succede? Che quindi le varie agenzie delle entrate dei vari paesi, per motivi fiscali, acquisiscono questi dati e quindi ti aspettano quando tu rientri. Perché di quella somma che tu vinci in quel posto, poi paghi il 30, il 35, il 40% di tasse. È stato parassita, ma... Capito? E questo è valido per tutti gli stati, e chiaramente il nostro, che si vuole mettere in evidenza, applica la tassazione più esagerata. Infatti ci sono tanti, ma veramente tanti, i player in nazioni estere, proprio perché così facendo hanno la possibilità A di avere una tassazione chiaramente molto più vantaggiosa, e B quello di poter giocare sulle piattaforme.com, cosa che è vietata dalla legislazione italiana, perché devono essere tutte quante piattaforme con i permessi della regolamentazione di AMS, che è la branca dei monopoli di Stato che gestisce i giochi sulla rete, ed è valido per le sole piattaforme.it. Sulle .com chi vuole giocare, dove chiaramente ci sono quelle americane che presentano anche la possibilità di avere tornei da convincita in denaro, penso per i giochi online, convincita in denaro di gran lunga superiori, deve andare fuori, deve risiedere all'estero. È gettonatissima in questi ultimi due anni è ad esempio Malta, che come Comunione Europea, come Comunità Europea, tu ti muovi tranquillamente con la carta d'identità, però al tempo stesso a Malta c'è una legislazione fiscale di gran lunga conveniente, quindi un sacco di giocatori italiani risiedono a Malta. Eia, solo che mamma mia, Malta quanto è dispersa nel Mediterraneo, già siamo isolati noi, ma quella... Malta è bellissima, siamo tiro di schioppo dalla Sicilia. Ah beh, però, non lo so, la vedo una specie di terra di nessuno. Tanto terra di nessuno, che a quelli che arrivavano con i barconi non li facevano avvicinare e li lasciavano in mezzo al mare. Gli unici cretini, tra virgolette, sono gli italiani. Però i cari maltesi li farebbero morire in acqua, mi sembra gente senza scrupoli anche. Vedi, in Italia almeno siamo democratici, li facciamo entrare e poi li cacciamo via. Chissà cosa, li facciamo entrare e poi rimangono, perché questa è la realtà delle cose. Tant'è vero che converrebbe essere un rifugiato politico italiano per godere almeno di quelle che sono le coperture sanitarie e assistenziali che danno ai profughi d'oltremare. Alla fine sono tutti rifugiati politici quelli che vengono da noi. Allora, con il discorso che siccome sono tutti rifugiati politici, morale della favola, ti hanno fatto collassare quelli che erano dei centri di accoglienza che erano nati per tenere qualche centinaio di persone, non migliaia e migliaia e migliaia. Questa cosa non è stata chiaramente valutata dall'inizio e quindi morale della favola, adesso ne paghiamo le conseguenze. Il 30% della popolazione carceraria sono stranieri. E la cosa non è finita, cioè tu ti devi porre il problema che per 200-300 persone che arrivano può essere un'azione sociale ed intervento pacifico e di accoglienza sotto tutti i punti di vista, ma se dovessero arrivare 2-3 milioni di persone che cosa fai? Ho sentito dire che forse fra un po' ci sono grossi sbarchi dalle coste africane. Vabbè, allora facciamo come Malta, cominciamo a sparare. No, perché comunque il discorso è questo. Fino a che non viene platealmente reso impossibile l'approdo, anche i signori delle tratte, coloro che chiaramente sfruttano questi movimenti di questi poveracci, anche i signori delle tratte non si fermeranno e non organizzeranno, perché tutto è il cane che si morde la coda. Se si sa che non ti fanno avvicinare, nessuno prende col barcone e paga i classici 1000 euro di costo per salire su quel peschereccio e poi affidarsi a Dio per la traversata. I problemi li dovrebbero risolvere proprio negli stati di partenza di queste popolazioni, non svuotarli e così rendere ancora più piacevole la permanenza dei signori della guerra in ognuno di questi stati, perché comunque in stati dove non si sta comunque benissimo, perché in Italia non stiamo benissimo, corre il rischio semplicemente di aggravare la situazione e poi di rendere a sua volta gli italiani nuovamente come persone che devono emigrare a loro volta per cercare un minimo di fortuna in altri paesi, in quanto nel proprio non hanno più occupazione e non hanno un tetto. Con la disoccupazione che abbiamo al 12%, tu considera che moltissimo lavoro viene drenato proprio da pagamenti sotto tariffa che vengono fatti a molti stranieri che vengono in Italia. Quindi comunque anche quel poco di lavoro che c'è spesso e volentieri non viene neanche distribuito tra i connazionali, con l'aggravante che chi viene poi ha anche sotto alcuni punti di vista la la pregiudicatezza di pretendere determinate condizioni di vita, cosa che neanche lo Stato italiano riesce a garantire a tutti i connazionali. Lo so, però qua non sanno risolvere niente, credo che ti dica. Quando mi chiamano gli italiani all'inizio del Novecento che arrivavano a vagonate in America e non li volevano, giustamente, perché erano italiani. Italiani, messicani e neri. Però sono due periodi completamente diversi e sono due situazioni completamente diverse. Stiamo mettendo assieme due periodi storici dove l'intervento e l'utilizzo delle macchine è differente. Con l'avanzare del progresso le macchine hanno drenato da un punto di vista operativo spazi di lavoro all'uomo. Quindi mentre prima ad esempio si aveva bisogno sia per le miniere che per tanti altri lavori di manodopera proprio in agricoltura, per dirne una, di lavoro proprio manuale a go-go, e quindi c'era un bacino di fornitura, un serbatoio di fornitura che era quello di stranieri che arrivavano nel territorio, oggi non è neanche più così, perché hai macchinari che hanno limitato di gran lunga questo intervento, per cui non sono neanche situazioni che sono oramai più confrontabili. Quindi insomma è una situazione gravissima che però i maltesi hanno affrontato molto semplicemente dicendo: qua abbiamo le risorse contate per noi, se permettiamo a gente di venire dall'estero e poi a non sapere che cosa fargli fare, semplicemente ad avere bocche in più da sfamare e a dimezzare ulteriormente quelle che sono le poche risorse che abbiamo noi. Tutto lì, dal loro punto di vista è ineccepibile. Poi rilanciamo Gianni, vediamo se è entrato, se ha fatto misure. Ti volevo dire, ti ricordi i famosi sbarchi quando l'Albania è crollata? Ti ricordi quelle navi, mamma mia, piena di gente, piena proprio fino all'osso? E quella volta come hanno risolto? Quella volta come hanno risolto? Hanno semplicemente aspettato che si accomodassero le cose nel proprio stato, perché comunque l'Albania non è a livelli delle popolazioni africane, e se la sono vista da soli. tant'è vero che è stato anche un periodo dove alcune aziende italiane andavano proprio a creare, a trasferire le proprie risorse e la propria realizzazione di apparecchiature oppure di service che facevano nel territorio albanese, perché costava di meno ed era di gran lunga preferibile, per dire. E poi quello è già nel cuore dell'Europa, tutto sommato. Ehi, ti ricordi quel film L'America con quell'attore italiano? Lui era inviato da questa fabbrica per facendo la figurare in Albania, e siccome erano però truffaldini hanno chiesto a un vecchio albanese, che peraltro era italiano, trapiantato in Albania praticamente da quando era bambino, gli hanno fatto fare la prestanome, no? Dicendogli che avrebbe guadagnato non so quanto. Poi, a parte l'Albania era in crollo, hanno sgamato che questa fabbrica era una truffa e hanno arrestato questo italiano che era inviato. E alla fine praticamente per una lettera gli hanno detto che a loro interessava soltanto il loro funzionario corrotto, che lui poteva tornare in Italia, però senza passaporto. E questo italiano l'ha detto, questo inviato, dice, come faccio a andare in Italia senza passaporto? E il commissario gli ha detto, ma noi qui in Albania siamo tutti senza passaporto. E lui è tornato a bordo di una di quelle grandi navi piene di gente. Sì, sì, che fanno la spola con Brindisi. E era all'epoca di Sali Berisha come leader. Però tutto sommato, capo a breve tempo, si sono sistemate le cose, poi sistemate sempre tra virgolette, però sempre meglio che si siano sistemate là piuttosto che avercele importate in massa anche qua, quelle situazioni. Mia Pomponio, ciao Antonè. Allora sì, purtroppo per noi, mentre la bandiera è piccola, l'Africa è grande e stanno venendo da tutta l'Africa. Ok, ciao Antonè, vediamo se è rientrato Gianni, doppio room. Gianni non c'è, andiamo Antonè. Allora, come va? Guarda, oggi volevo passare, l'ho detto ieri, poi alla fine ho fatto altro, dai, niente da fare, anche per oggi niente da fare. Vabbè, ce l'ho smontato, quella cosa ce l'ho fatta, non è che la posso lasciare così al vento, visto che la giornata era così, non l'ho neanche piazzata la torsera. L'altra notte non l'aiuto dunque, aiuto un cazzo, se poco me la scende giù e mi tocca pagare anche la nuova, invece meno male, il vento non ha cambiato, si è stato maestrale, quindi sono stato fortunato. Ma stai dicendo quell'antenna autocostruita? Esatto, sì, esatto, quella lì, ce l'ho qua in camera smontata, aspettavo di buttare. Quella, se la metti sul palo, funziona quanto la tua 5 ottavi, Antonè. Via, mi si è asciugata la bocca. Via, invece siccome sta riprendendo l'EPT, io vi saluto, dai, che faccio una cosa prima che manca un minuto e 35, faccio una cosa prima che riprenda, che me lo voglio vedere. Ciao Marco, buon proseguimento, dai, nel caso entro più tardi. K, ciao Salvatore, ci sentiamo alle prossime. Ok, vediamo che ci è rimasto sul 25. Un'anima, non c'è nessuno. Dai, adesso già rientra Pomponio. Ciao Marco, a più tardi allora. K, ci sentiamo. capiti? Tutti schiattati siamo. Ah, che ci segna. Pensavo che eravate spariti. C'è una fotografia di Emma Marone, nuda, su MSN. E anche i cantanti si svestono, grazie a quanto sembra. E anche buona amica, c'ha le tette proprio a bicchiere di cosa, di champagne. Potrebbe essere un fotomontaggio. Ci sono siti tipo Nude Celebrities che praticamente fanno fotomontaggi, mettono la testa del cantante e il corpo non è del cantante, della cantante soprattutto, dell'attore, qualsiasi altra persona, possono fare fotomontaggi su qualsiasi persona, li fanno anche bene a livello professionale. No, non è fotomontaggio, cioè, è proprio lì, ci sono sei foto sue, le avete lì, capito? È buona mica, è veramente buona, ma ragazzi, tu guarda MSN, fai musica e c'è le cose, addirittura Putin ha scritto che vuole appropriarsi di cosa, di Google e Facebook, in pratica se vogliono usare il coso devono pagare, te lo immagini? Putin è un dittatore, conta che è un ex KGB mi pare, e poi si vede quello che sta facendo lì ai confini, è un piccolo dittatore, non avrei mai messo una persona del genere in Russia come presidente, francamente, bisogna trovare qualcuno più democratico. Ui, quello è mancato, non hai capito, quello sta diventando come cosa, vuole fare vedere che la Russia è una superpotenza, comanda lui, capito? Come in pratica come fanno gli americani quando vanno nei posti e comandano, intervengono subito loro, mi sembra che lo vuole fare lui. Vuole in pratica dividere i blocchi in due adesso, siccome tutti vogliono venire alla comunità economica europea e quindi dice no, adesso basta. Adesso mi ripeto tutto quello che mi hanno fregato, in pratica la Polonia, vedrai se piglia la Roma, la Jugoslavia e cose del genere. E arriveremo come una volta, la Germania è divisa in due. Infatti è una persona pericolosa, cominciano così le guerre mondiali. Figurati, questo vuole ripristinare la cortina di ferro e riprendersi i paesi che avevano una volta, la vecchia Unione Sovietica. Per carità, aspetta, qua sale poco, come mai? Un attimo, E balle, quando vuole già sale, a frusciare sale. Capito, Antone? È una persona pericolosa, io spero che l'ammazzino all'interno del loro paese i loro stessi agenti di sicurezza, capito? Sì, ci ripeto, vuole fare di nuovo come prima, capito? Di appropriarsi delle, capito? Della Polonia e tutto, tu vedrai che in pratica è da soldi, capito? Dice io voglio è da soldi, capito? Ecco perché la gente si sta, come è povera, siamo noi fame e quindi aderisce, come l'ha fatto in Crimea, tale uguale. Hai capito? E quindi è la divina, dice no, se la biglia il culo, ma lui dice questo mi dà 5.000 euro al mese, infatti ci fa anche, diceva quello. Sarebbe bello che sta scrivere, se vuole la Sardegna, amico, così, almeno se ne viene, lui se ne viene qui, dato che c'è la villa, ci dà 5.000 euro al mese a tutti e arriviamo alla Russia. Sarebbe stato bello a mandargli una cosa del genere, che sapere cosa vuol fare. Per carità, la Russia così era prima e così sta tornando, capito? Peggio per loro. Ma Tu vedrai, io penso che non ci vuole molto che a Berlusconi piglia se ne andrà, anche se altro più pagare il passaporto. Come dice, adesso me ne vado io in coso, nella vita dice questo ospedale, altro lui abita a fianco, capito? C'è una macchina sua, tu anche te ne vai in Russia, vai a Ciappa o tu. E poi si fa chiedere asilo politico al suo amico Putin, capito? Il degno compare, così si può fare tutte le russe minorenni che vuole, che lì c'è una certa classe che fa quello che vuole, hanno bei soldi e quindi possono comprarsi anche le persone. Che cosa farebbe? Forse che c'è indagato il marito di della, come si chiama, della Mussolini, con quelle ragazze minorenni di Roma. C'è indagato anche quello, perché quanto sembra c'è, anche lui c'è andato, tu figurati. Ho sentito una cosa del genere. Comunque le colpe io non le do solo a loro, perché loro sì sono andati con le minori, però con le troie i soldi se li sono presi. Infatti. Quella è Falcone mi. Allah. Quello lì, per me, alla ricezione spostata, perché per ricevere bene devo mettere Infatti, tutto è strano, ho detto, boh. Vabbè, adesso domani mi sistemo questo cazzo di coso, metto il toiso dentro domani, gli metto il finale. È caldo, tutto spingo, durazione aumenta, e meno, lì non ci sono picchi. No, in effetti me lo viene, no, è una frequenza modulata, una frequenza in ampiezza, capito? Picchi non ne hai. Il TV spinge parecchio in FM, c'ha un audio allucinante, c'ha 140, 180, eccetera, eccetera. Di brutto con 0 watt e in FM devo alzare qua, aspetta, ci sono 4 watt, prima ero con pochi mili. Ho capito, ma quanti watt ti va fuori in tutto? Una cinquantina, vuole lo strumento apposito, vuole per esempio un Rosemet, un wattmetro Beard, leggere la potenza PEP. Beh, quello sì, col Beard c'era un amico mio, c'era, sì. Non ho più visto la vetta, se no l'avrei chiesto, cazzo. C'erano due birdi, cazzo, che c'erano gli affari in che sono tutti in oro, placati in oro, so, cazzo. Ogni frequenza c'ha le cose sue. Inserivi quello e facevi il water, non sbagliava di un millimetro quello, cazzo. Fa un culo a me che non me l'ho preso, cazzo. Però stava dando, ho detto, vabbè, te lo lascio lì, comunque giorno me lo piglio, invece non ho pigliato un cazzo. Fa un culo a me. Andava preso Antonè, è un peccato, andava preso, perché poi bisogna avere tutte le quelle cose che gli avvitano avanti, cosa sono, bobine, cosa sono? Deve aprirlo, li metti quello, ognuno, cioè ogni frequenza c'è uno di quelli, capito, apposito, per dire vai in 144, ci metti, devi mettere uno di quelli, vai in 27, ci devi mettere un altro diverso, sono tutti placati in rosso, con quello non sbagli. Antonio, lo senti quel bip multiplo? Sembra una selettiva, però è lunga, non finisce mai. Lo sento. A cosa sarà? Un sistema di trasmissione dati? Una cosa del genere? No, la trasmissione dati è diverso. Digitale, molto molto diverso. In USB bisogna mettere. Comunque c'è il programma, a me. Per la ricezione e trasmissione di dati digitale, poi ci vuole naturalmente il coso, l'aggeggio, vabbè. Ma infatti è in USB, la sento bene solo in USB. Ti lo sto dicendo. Peccato che là c'è il pugno sulli. Sembra per fare il coso, ma è una bella parecchio. E se è andato in digitale a farmi di X, ci sono le frequenze anche sulla 27 addirittura per andare in digitale, tu figurati. Lo so Antone, io più volte ho sentito segnali digitali, 27, alcuni sui canali di sotto che sono più silenziosi, però mi piace la fonia, non c'è niente da fare. Tu fai tutto in automatico, se ne la futti, sai di X che fai? Cazzo, uno ogni minuto ne fai, cazzo, allucinante. Io l'ho visto, c'era Stefano appesato alla sassa, dico, se tu vai a casa sua, guarda, te lo faccio vedere, ti innamori subito di quella cosa. Fa tutto il computer, tu non tocca un cazzo. Coraggio. Prova a chiamare, chi c'è qua, ho sentito un segnale forte. Chi è che vuole entrare? Oh, c'è il dentume. E preso su. E tanto, a me accolti. Ora, Coca-Cola. Sì, prego, no, perché ora, ce l'ho in gola, ora, ce l'ho in gola. Chi è? Ok, Coca-Cola. Chi è West Germany, ok? Ok, Germany. Questo lavora Coca-Cola. Hola Germany, Coppa Italy, Coppa Italy, Sardegna Island. Cazzo, Simona ci vuole, ma Simona sai come sono mangiare questi qua. Se sono mangiano, cazzo Simona. E parla tedesco, io non la comprendo nulla. Germany, squeeze Italy. Ok, Italy. Yes, that's Germany, the city name is Frankfurt, okay? Okay, this is Station Alpha Parima, number one, Alberto Anthony, Sardinia, Italia, Midland, naturalmente. Natural Moon. Okay, alles klar, Master. Santiago 9, Radio 5, okay? Okay, okay, Santiago 9, Radio 5, pure a te. Che stesso segnale ci abbiamo, io cosa con 15 watt. Quanti watt c'hai tu? Attention, how many watt have you? Stanno parlando sotto in Germania anche. Attention, my friend Gemini. C'è quel bip multiplo in USB che disturba molto. Dovrebbe essere un pallone sonda, non lo so, sentato un pallone sonda. Oh, e non lo possiamo bucare, ci facciamo un ripetitore col pallone sonda, parliamo dal polo nord al polo sud. Allora facciamo così. A me mi è sempre stata sparita qua, la verità. Ma cosa vuol che dove siamo detto parla cento perché non comprendo nulla lì. Ma qua entravo 4 o 5 tutti assieme, cazzo. E vediamo se. Attention Germany, attention Germany. Italy, Sardinia Island. E all'alleare. Ma cazzo sul liscio io, 15 watt, che mi sentiva. Attention my friend Germany. Ma c'è una ruota, Antonio, c'è una ruota in Germania e ci passano sopra. Io lo so, la cosa mi ha chiamato lui, ma la verità pensavo che fosse uno di sale per il culo. Ora Coca-Cola. Sento, mi sento. Ti senti bene? Hola. Coca-Cola. E c'è il questo di fondo tedesco. Santiago 5-6 sta arrivando a me, te quando arriva? Guarda, quando ci stavi parlando era 9. E questi sono i segnali, comunque, cioè va bene. Ah, vendo che è la Grand Prix, eh? Ah, voglia che vendono, cazzo. Vedi come lecco? Pania. Pompa. Attention my friend Germany, Scucci Station, Silvio Berlusconi. Aspetta che ti mando mio figlio. Pier Silvio, chiama l'amico tedesco di Germania. Otto, Germania, yeah. Ok, bravo whisky. Bravo whisky, copy Sardinia Island. Yeah, copy, good signal. Bravo whisky, Germany, my city. Mi sa che è meglio che arrivi qua con questa antenna a parlare di Marco. Boo. No, ma risposto, c'ho 40 watt. Bravo whisky. Ciucucciù? Bravo whisky, Germany! 9! Ah, ok. Do you want to buy Silvio Berlusconi? no, Berlusconi. Gli ho chiesto se si comprano Berlusconi. Ho sentito. India, what's up? Who is? Achtung. Bitte. Achtung. Germani. Che cosa è questo? E già. Ho abbassato Antonet, troppo caldo. Scusa, l'ho fatto prima attaccare il mio voce 31, se c'è un lineare, anzi, il bicchiere, quello piccolino. Attacca quello, metti al minimo, scusa, fai come facevo io con Kenwood. Usavo l'apparecchio a 4 watt, 4 watt e mezzo, attaccavo il mio voce 31, riuscivo a 150 watt, tondi. Così l'apparecchio rimaneva bello integro. Avanti, Blinco. Grazie, 1-3 Romeo Sierra. 1-3 Romeo Sierra, Germania, Alemania, chi vuole? Buonasera. Stazione 1 Alfa Lima, operatore Antonio, Italia, Sardegna, isola di Sardegna, città di Sassari. Parlare italiano, ok, mi chiami Rico is my name, ok, ma come ti chiami tu, come sei? Io mi chiamo Antonio, stazione 1 Alfa Lima, operatore Antonio, isola di Sardegna, città di Sassari, sono in compagnia di Marco, qui sempre da Sassari, adesso te lo passo, penso che lo sentirai anche tu, intanto se abbiamo la stessa antenna, tale uguale, avanti Marco. No, negativo, Antonio, sto cambiando apparato. Signale 1. Okay. A 5-9 Germania, e Germania Francoforte, chi hotel? QSL, io sto usando un apparecchio, la verità 1-3009, 15 watt d'uscita e una BA27L della Sigma, con radiale modificata di Grand Plain. Tutto qua, liscio come l'olio, senza lineare, senza niente. Così è bello parlare. Dire che hai parlato con liscio, con i batti del tuo apparecchio. Antonio, ma dove sei tu in Italia? Dove sei? In Sardegna, isola di Sardegna, città di Sassari. Controlla su dove siamo, non c'è problema. Hola Coca-Cola, hola Coca-Cola, prego. Ok Antonio, grazie, ok? Antonio, ma è transiva, ma in transiva è the Marco Stabo, ok? Very often transiva the Stabo, microphone la Delta, Echo Master Block. È una merda lo stampo. I say it. E 5 c'è forte invece. Picale antenna, ti hotel? Ok, ho capito, stai usando il salentale Ecomaster, anch'io. Cioè io, anzi vabbè, questo è il CM40 Special. Sempre salenta con microfono amplificato. Comunque il segnale tuo è 9+10 adesso, tondo, modulazione 5, 5, proprio di lusso. Ciao, arrivederci, io sono Germania, Alemania, ciao, alla prossima, ci sentiamo, avanti Marco. Achtung, Spagna, cosa vede casi? Bravo Whisky, ok? Marco, zitto. Cicchiccia. Oh, Whisky, cicchiccia, hoi. Ma sta colleria, cazzo, quello è tanto ammatto. Cazzo, che schifo, beh. Dado e tornado. Cosa c'è un tornado adesso? No, negativo. Ah, usa quello grosso, è vero che cazzo, in effetti come tuba. Vediamo che c'è, qualche crucco c'è ancora. Perché sta salendo così? E no, non è normale, no? Aspetta che abbasso. C'è un bel canale di gente anche sugli altri canali, Antonè. Ma sei senza processore o processore? No, no, è sempre l'Omega. Sì, che 40 watt ne ho 100 adesso. Ah, allora già cambia la cosa. Prova a fare chiamata, si sente. Allora, io la verità non pensavo di arrivare di là. Dopo un gioco, cazzo, 15 watt. Vediamo, così non pilotarlo però. Prendo troppo, vuol dire over. Vediamo un po'. Attention frequency Nord Sardegna calling division 165. Brecco, Brecco, Olanda. Ok, Germany, your signal is 9 plus 10. Radio is 4, radio 4. Ok. Yes, a little bit more than me, but anyway, the radio is perfect. Over. Ah, okay. Many tune modulation. Okay. My radio is Magnum Omega Force and 100 watt linear amplifier. Okay, nice working. Antonè mi ha detto 9.40. Io sei contento. Can you come back once again with your call and your name please, over? Sorry, too many modulation. Accudire in quanto so. Good evening also, but I think I lost another station there. This site is the 16th division. Anche importante Antonello, c'è portante, ogni tanto sale e scende. Antonello. CQ. Hola. Antonetti. Sì. Era sul 26, segnaloni anche lì, 9 più 20. Ah, sai come dicono loro? Dicono 9 più, plus 9 plus, per esempio, 20. Dicono 20 plus 9, vuol dire 20 dopo il 9. Un po' come dicono l'orario gli inglesi, capito? Piccata. Ah, solo cerca di aprire la finestra, cazzo, abbiamo il nuvole, devo mettere la canola a pesca, a prendere questa cazzo dentro casa, cazzo. Se immagina, c'è un altro quello fuori dalla finestra che c'ho, cazzo, un bico, vabbè. Che cosa, di cazzo, ti assilla, cazzo. Neanche mezz'ora. Marco, vai su 24. Marco. Bye bye, good day. AQDX, AQDX, 190 fish in the Netherlands, Rwanda, standing by, break go. Antonetti. Sono varie modulazioni. Oh, sul 21, 1, 9 più arrivava. Minchia, tutta la città, ma non ho capito bene. Troppo il loro accento è diverso e quindi è difficile capirsi. E anche sul 24, su questo c'è. Comunque non sono riuscito ancora a vendergli i Berlusconi, eh. Minimo minimo ti pigliava parolacce, cazzo. Comunque la senti la portante? C'è una portante, presumo dalla Germania, che oscilla. Portante mutta. Sì, la sento, ma si ammazza, ma già c'è. Di propagazione che c'è in casa, ma sono strano. Antone, vai sul 27, ce n'è uno 9 più. Via. La passo la portante in Germania, la passo. Boh, non li capiscono. Aspetta un po'. E dai, e ni dai, troppo alto. Quanti testa l'alba? È un centinaio. Oh, sta consumando 8, 10, 12, 12 ampere. Allora, va bene, già ci sono tutti. Cosa ho dimenticato il microfono? Schiacciato, te lo dico io. Antonè, sul 26 vado ad ascoltare, ci sono segnali buoni, tanto questo è importante. Esatto, sì. Attention, attention, North Europe. Hello, hello. Achtung, Achtung, Estation Pic, io la grossa chiama. Attention, gibt ja doch überhaupt gar keinen Sinn. Nein, nein, ich sage nur... Aber ich nicht hier noch kurz. Attention, attention, attention, me. Und super. Okay, attention, attention. Hallo, Lor. We are selling Silvio Berlusconi. Do you want a boy? Sicuro. Mi dice Olanda. Good evening for all. This is Division 165, Sardinia Island. Hello, Sardinia Island. Do you copy Belgium? Yes, signal 9, signal 9. 19 division. Antonio, guarda che sono con pochi milliwatt. Purtroppo questi hanno un accento allucinante, non li capisco alle volte. Guarda, sono più facili gli spagnoli da fare che loro. Copiato, Antonio. In the first again, in particular, German station Delta Lima 7420. Delta Lima. German point. Ah, ce soir. Che c'è. Vediamo se c'è l'Olanda. Attention, Holland, do you copy? Attention, the station, okay, copy, very good, the station. Your Santiago is number 7, your radio is 4. Yes, North Sardinia here, North Sardinia here. Operator Mark, ok. Un apparecchio Magnum Omega Force 100 watt, come si dice 100 watt? Sorry, bad English. Ok, 20 channel, please. 20, 0, 20, over here. Antone? Oh la la. Sorry. Antoneddu. Pompogno, la mazza ti rimpaglia. Look, whose father was over Filimon, the U-Bahn, the victim device on the house. Also, the whole thing is as a drive in the afternoon, the fellow students, the guy made the star, the